Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Homage to the Buddha, the Blessed Noble and fully self-awakened one. Omaggio al Buddha, al Beato, Nobile e al pienamente autoilluminato. This evening we have to investigate the Buddha's teachings on our psychology. Quindi stasera dobbiamo investigare sugli insegnamenti del Buddha riguardo alla nostra psicologia. So for many of you it's a little revision. Per molti di voi sarà un ripasso. But for others it might be an introduction. Ma per altri potrebbe essere un'introduzione. So I would like to start, usually I end with this, but this time I'd like to start with what Nibbana is. Allora comincerò col dire che cos'è il Nibbana, che di solito è una cosa con cui concludo il discorso, però stasera mi piacerebbe iniziare così. Just for a change. Giusto per cambiare. Even when the early Christian missionaries went to Buddhist countries, they thought that Nibbana was just a very clever way of saying annihilation. Quando i primi missionari cristiani sono andati nei paesi buddisti in Oriente, loro ritenevano che il Nibbana era solo un modo, diciamo, gentile di descrivere l'annichilimento. It's a very subtle way of saying that actually everything finishes. Quindi era un modo molto sottile per dire che a un certo punto tutto finisce. Even today you will find people who follow the Buddha's teachings, use the meditation, even call themselves Buddhists, but don't believe that there is such an attainment as Nibbana. Ancora oggi ci sono delle persone che seguono gli insegnamenti del Buddha, fanno la meditazione, si ritengono dei buddhisti, eppure pensano che non ci sia una realizzazione che si possa chiamare Nibbana. There's even a book called Divine Revelation in Buddhism. C'è anche un libro che si intitola Rivelazioni divine nel buddismo. In which the author, who is an academic Pali translator, in cui l'autore, che è un traduttore studioso, insomma, accademico della lingua Pali. The name, of course, I forget. Ma ovviamente il nome me lo sono dimenticato. Who says that any of the spiritual attainments were given by the grace of the Buddha? Allora, questo autore dice che tutte le realizzazioni divine sono state, come dire, concesse attraverso la grazia del Buddha. A transmission from the Buddha himself to the disciple. Come se fosse una specie di trasmissione dal Buddha stesso ai suoi discepoli. So in his understanding, the last person to be even a stream entrant would have died within 70 years of the Buddha's own death. E quindi, secondo la sua interpretazione, l'ultima persona, diciamo, a poter raggiungere queste realizzazioni spirituali sarebbe stato probabilmente un sotapanya, cioè colui che entra nella corrente, però al massimo 70 anni dopo la morte del Buddha. Stream entry is the first true spiritual attainment. Fase del sentiero, questo stadio del sentiero, quello della sotapanya, del colui o colei che entra nel sentiero, è il primo livello di realizzazione spirituale. And there also it is also true that especially Theravada Buddhism attracts reductionist materialists. È anche vero che il buddismo Theravada attira quelli che Bhante chiama dei materialisti riduzionisti. Sì. Yeah, in other words, they believe that there is only subatomic particles. In altre parole, sono quelli che pensano che ci siano solo delle particelle subatomiche. Everything arises from subatomic particles. E tutto sorge, nasce da queste particelle subatomiche. So that consciousness is, as they call it, an emergent property from the brain. E quindi loro ritengono che la coscienza è come fosse una proprietà emergente dal cervello. So for them Nibbana may be attained in this life, but you've only got one life anyway. E quindi secondo loro il Nibbana si può raggiungere in questa vita, ma tanto ne hai una sola di vita. So it's a bit of a waste of time trying to get Nibbana. E quindi secondo loro è un po' una perdita di tempo cercare di raggiungere il Nibbana. And so the accent is on trying to develop the good life, which is, you know. E quindi loro sottolineano l'importanza di sviluppare una buona vita. The Buddha said that if there is no rebirth, then at least if you practice the Dharma, you do get the benefit of it in this very life. Il Buddha stesso ha detto che anche se non ci fosse una rinascita, comunque se uno conduce una vita retta, seguendo i suoi insegnamenti, comunque può godere dei benefici in questa vita. It's as I read the discourses, it's very difficult to come to such a conclusion. E secondo me, leggendo i discorsi del Buddha, è molto difficile giungere a questa conclusione. He talks about Nibbana both in the positive and in the negative. E lui ha parlato nel Nibbana sia in senso positivo che in senso negativo, o affermativo o negativo. In the negative, he says, there is that which is not born, does not die. In senso negativo lui ha detto c'è ciò che è uno stato in cui non c'è né nascita né morte. Not conditioned, not created. C'è il non condizionato, il non creato. But then on the other side he says there is a sphere. Now this word sphere is used for a particular level of experience. E d'altra parte però parla anche di una sfera, e in questo contesto sfera si riferisce a un certo livello di esistenza. So when we chant, level of experience. Level of experience. What did you say? Existence. Un certo livello di esperienza. Excuse me. I should have listened to you. Gianni is here to check on me. Very good. Yeah, grazie. In the dependent origination that we chant in the morning. Nella catena di originazione dipendente, che è quella che recitiamo al mattino. It says, dependent on the body of mind, the six ayatana, the six spheres of experience arise. Allora, c'è questa relazione di condizionamento, dice, sulla base del corpo e mente sorgono queste sei sfere sensoriali. And these spheres are your five senses and the mind. E queste sfere sensoriali sono i nostri cinque sensi più la mente. So he's talking about the retina and the eye. Quindi sta parlando della retina, dell'occhio. That this sphere is enclosed just on the eyes. E questa sfera è come racchiusa solo intorno agli occhi. So you can't hear through your eyes. E quindi, in altre parole, non possiamo ascoltare, udire attraverso gli occhi. It's not possible. Non è possibile. So, and there is inside the whole sense base of the mind. Però all'interno c'è tutta questa base sensoriale che è rappresentata dalla mente. This is the base upon which your imaginings and your thoughts arise. È la base dalla quale sorgono le nostre immaginazioni, le nostre immagini, anzi, i nostri pensieri. Sì. Now he says that there is a sphere beyond all that. Allora il Buddha dichiara che c'è una sfera che va oltre tutto ciò. Where there's no time, There's no sun, no moon, nothing. Dove non c'è il tempo, non c'è la luna, non c'è il sole, non c'è nulla. Ah. But there is a sphere. See? Però there c'è questa sfera. Ah. At one point somebody asks him, "Where is the end of the world?" A un certo punto qualcuno chiede al Buddha, "Ma dov'è la fine del mondo?" And just to go to the straight point of the discourse. Per arrivare proprio al nocciolo della, del discorso. He says there's no end to the world. Il Buddha risponde, non c'è alcuna fine del mondo. This is the wrong question. Questa è la domanda sbagliata. Ah. The question should be, where does the world have no footing? La domanda dovrebbe essere, dov'è che il mondo non ha una presa, direi. Sì. And then he says, there is a consciousness which is not touched by any of these senses, these ayatana. E poi continua dicendo, c'è un livello di coscienza che non è toccato da alcuno di questi ayatana, da queste sfere sensoriali. Without boundary. Ed è senza limiti. Boundaries can only be created by phenomena. Perché i limiti possono essere solo creati dai fenomeni. Ah. And in all directions full of light. E in tutte le direzioni è piena di luce. Ah. Just this is the end of suffering. È proprio questa la fine della sofferenza. Ah. He also talks about Nibbana as an island. E ha parlato anche del Nibbana come di un'isola. And when he referred to himself as the enlightened person, he referred to himself as the Tathagata, the one who has transcended. E quando parla di se stesso, del pienamente illuminato, si dichiara un Tathagata, cioè colui che ha trasceso. Ah, sì. Si dice? So, sì. Transcendent. So, with all that in mind, let us now have a look at this dependent origination. E quindi con tutto questo in mente, adesso diamo un'occhiata a questa catena dell'originazione interdipendente. If you've got the leaflet, you can follow me with it. Se avete il vostro foglietto, potete effettivamente seguirmi. Non ricordo se l'ho dato a Laura. Laura, ce l'hai? Me lo puoi dare tu? E forse anche Roby non ce l'ha. Sì. Ci sono? There are a couple of people who don't have it. Oh, yeah. Ah, grazie. Ce l'avete tutti? You can see from the Buddha's victory verse that he's not talking about nothing. Potete vedere dai versi di vittoria del Buddha che non è che stia parlando del nulla. The last line tells us how he now experiences life. Perché l'ultima frase ci dice proprio come adesso lui sta sperimentando la vita. So now there's no more wrong desire in him. Quindi adesso non c'è più nessun desiderio sbagliato in lui. Yes, and his consciousness is no longer conditioned. E la sua coscienza non è più condizionata. Okay. So you see the first word of the Paticcasamuppada, which means the arising, conditioned arising. Quindi vedete la prima parola del Paticcasamuppada che significa il sorgere condizionato. Everything in Buddhism, everything in the Buddha's teaching, remember, is always interdependent. Quindi tutto nel insegnamento buddista è interdipendente. So there's nothing in the phenomenal world that has its own existence. Quindi it's always dependent on something else. Non c'è nulla nel mondo fenomenico che abbia una sua esistenza. Ogni cosa dipende da qualcos'altro. For instance, we are one breath away from death. Per esempio, noi siamo un respiro noi siamo distanti un respiro dalla morte. So this avidya is, it translates here as ignorance. Allora, questa, la prima parola è avidya, che si traduce come ignoranza. Ignoranza, sì, ignoranza. Sì, forse non l'ho tradotta questa parte, vero? Ah. No, sorry. Doesn't matter. Imparate l'inglese. Non importa. Ignoranza. Vabbè, si capisce. Ignoranza. Apposta, sì. Sì. This word suggests that we should know, so somehow we're culpable. Questa parola indica che noi dovremmo sapere qualcosa, quindi in un certo senso siamo colpevoli, siamo ritenuti responsabili. But actually this word in the Pali just means don't know. Però, cioè, questo è il significato di ignoranza, però la parola avidya in Pali significa semplicemente non sapere. Now, because we don't know, we make a mistake. Poiché non sappiamo, commettiamo un errore. We believe ourselves to be what we are experiencing. Noi riteniamo di essere ciò che stiamo sperimentando. So, consider a newborn baby. Considerate un bambino, un neonato. So, the psychiatrist who was one of Freud's students, Mahler, I think she was called Mahler. Una psichiatra che era una degli studenti di Freud, Mahler, confermate. She studied the first three years. Ecco. Margaret Mahler, dicono gli psicologi. Allora, comunque questa psicologa, allieva di Freud, ha studiato il primo anno del bambino. Tre anni. Sì. I primi tre anni del bambino. Sì. She discovered that in the first 4 months, the child is living within a bath of sensations which are completely subjective. Allora, ha scoperto che nei primi 4 mesi questo bambino è come se vivesse in un bagno di sensazioni che sono puramente soggettive. And then after about 4 months, the first object arises. E poi dopo 4 mesi comincia a sorgere il primo oggetto. And it's usually the carer, the mother or whoever's. E di solito è la persona che si occupa di lui, quindi normalmente la madre. Sì. Then it takes, I can't remember the time, perhaps somebody knows, it takes a year or so for the child to push this inner world of this bath of sensations into an outer world. E poi ci va un po' di tempo, non ricordo esattamente quanto, forse lo sapete, ma forse un anno, prima che questo bambino riesca a spingere fuori di sé questa totale immersione nelle sensazioni e spingerla in un mondo esterno. And it takes up to about the age of 3 for the child to actually individuate, to become a little person. Deve arrivare però all'età di 3 anni per potersi individualizzare, cioè ritenersi una persona. So often the child will say, I am a girl, I am a boy, round about there. They know. Intorno a quell'età il bambino dirà, io sono un bambino, io sono una bambina. At that point, the child's identity with their psychophysical organism is complete. A quel punto l'identità del bambino con il suo organismo psicofisico è completo. And that's where most people stay. E di solito è lì che le persone si fermano. They don't go beyond I am the body, I am the mind. E non vanno oltre questa idea di io sono il corpo, io sono la mente. Yeah. I was once with a friend and we were talking about general beliefs in Buddhism. Stavo parlando una volta con un amico di proprio così idee generali intorno al buddismo. And his father was there, already an elderly man. Il suo padre era una persona anziana. And so I said to my friend, you know, I said the body is not real. Allora io ho detto al mio amico, ma tu sai che il corpo non è reale. And his father shouted at me, yes it is. E suo padre mi ha urlato, sì che lo è. So I thought, okay. basta. Allora ho detto, va bene, basta. He died within a year. Ed è morto di lì a un anno. So, this identity creates, remember, a relationship with the world. Quindi è questa identità che crea una relazione con il mondo. And remember, that relationship is driven by seeking happiness. E ricordate che questa relazione è spinta, potenziata da questa ricerca della felicità. So now, here we have a case of not knowing, making a mistake, creating a relationship with the world. E quindi qui abbiamo una situazione di non conoscere, fare un commettere un errore e entrare in una relazione con il mondo. Ah. So what is it that is this original knowing before it makes the mistake? E quindi cos'è questa conoscenza originale prima di commettere l'errore? So, once it's made this mistake, this relationship manifests as acquisitiveness, remember, gathering things to make one feel safe. Quindi una volta commesso questo errore, allora questa relazione si manifesta o con questa, che si chiama acquisitiveness, questo voler sempre accumulare, no? Ottenere delle cose, raccogliere attorno a sé. To make one feel safe. E questo fa sentire sicuri. And of course, to make life enjoyable. E ovviamente questo serve anche per rendere piacevole la vita. And then, of course, to push away, to get rid of, to annihilate anything which undermines my happiness. E poi, ovviamente, l'altro tipo di relazione è quello di allontanare, eliminare, annullare tutto ciò che va a intaccare questa mia ricerca di felicità. And if the enemy is too big, to be able to run. E se il nemico è troppo grosso, allora è questa capacità di o possibilità scappare. Di scappare. So, from there we then begin to act in the world based on this unethical attitude. Quindi da lì cominciamo a agire nel mondo sulla base di questo atteggiamento non etico. Now, don't forget that also we're developing the good qualities. Non dimenticatevi che stiamo anche sviluppando delle buone qualità. We're developing also love, compassion, joy, etc. Stiamo anche sviluppando l'amore, la compassione, la gioia. But even though these are in themselves wholesome attitudes, they are cancered by the possession of I. E quindi anche se queste di per sé sono delle buone qualità, sono però come contaminate dal fatto che posseggono questo io. So there's always conceit. E quindi c'è sempre questa sorta di presunzione. Presunzione. Yes, questa adesione ad un io, diciamo. Is that right, conceit? Conceit è essere presuntuoso, credere molto in se stessi. Ecco, quindi questo sì. Senso dell'ego. Ecco. Avete una traduzione migliore? Come? Autocompiacimento. Is it difficult? Perhaps Italians don't have it. Forse gli italiani non ce l'hanno. Comunque, una persona, se è conceited, è una persona presuntuosa. Quindi conceit è la presunzione, cioè l'importanza data a se stessi, io direi così. Sì. Sì, è questo, perché there's three conceits. Ci sono tre tipi di questa, che io traduco presunzione. I'm better than you. Io sono meglio di te. I'm worse than you. Sono peggio di te. You're better than me. Cioè, tu sei meglio di me. And I'm equal to you. E io sono uguale a te. Most people think that being equal to you is very humble. Molte persone, la maggior parte delle persone, ritengono che essere uguale a te sia un segno di umiltà. But actually you're joining a group of people who are equal, but they are better than or worse than other groups of people. Ma in realtà quello che state facendo è unirvi a un gruppo di persone che sono uguali a voi e che sono o migliori di un altro gruppo o peggiori di un altro gruppo. So, very subtle conceit. Quindi è una forma di presunzione, ma molto sottile. So Then we have the Vijapaccha Sankara. We have, because of this mistake, we create habits. E quindi a causa di questa di questo errore creiamo delle abitudini. Even those habits that are beautiful have this mistake of conceit. Neanche queste qualità che sono meravigliose hanno comunque intrinsecamente questo errore della presunzione. And then we have the middle section, which the first part, which tells us what is happening now. So we have because of those conditionings, consciousness arises. E poi abbiamo la parte centrale di questa catena del condizionamento, diciamo, che ci dice che a causa di tutto ciò nasce la coscienza, cioè la coscienza è influenzata da tutte queste cose precedenti, questi anelli precedenti. Consciousness here, you have to understand, as because these European words don't particularly match what the Buddha means by it, really. Allora qui dobbiamo capire cosa si intende per coscienza, perché a volte queste parole delle lingue occidentali non corrispondono esattamente a quello che intendeva il Buddha. If you consider all the, say, a television or a monitor. Quindi immaginate una televisione, un monitor. There's all this information coming in, and it's presented on a screen. C'è tutta questa informazione che arriva e viene presentata su uno schermo. The screen not only presents what is, the screen in the mind not only presents a picture but also presents the understanding. Quindi questo schermo che è la nostra mente non presenta solo l'immagine ma anche la comprensione dell'immagine. Sì. So if you can imagine that there is somewhere in the mind where a picture, an image or something and the understanding is held for us. E quindi immaginate nella nostra mente che ci sia come un'immagine e insieme a questa immagine ci sia anche la comprensione di essa. È come fosse ci fosse presentata insieme. Yeah. So for instance, while I'm talking about this, all of it is arising out of the mind and being presented on a screen. Per esempio, io vi sto parlando di tutto questo e è come se sorgesse fuori dalla mente e venisse presentato su uno schermo. And there is the understanding there also. Però lì c'è anche la comprensione. Ah, so the act of consciousness also has its own intelligence, you might say. Quindi l'atto di coscienza ha anche la sua intelligenza. Ah, it's a bit like... It's a bit like the organs in our body, so that the liver knows what to do. È un po' come gli altri organi del nostro come gli organi del nostro corpo. Il fegato sa cosa fare. It has its own intelligence. Sua intelligenza. Every cell seems to understand what it's supposed to do. Pare che ogni cellula sappia quello che debba fare. You know the. Well, that's by the back together. So, dependent on these habits, consciousness will always arise. Quindi, sulla base di queste abitudini, sorgerà sempre la coscienza, inevitabilmente. And siamo al terzo anello, solo se state seguendo qui, Quindi questo è Vijnana, è la coscienza. Sankara, sono invece... So the sankharas come first and then the consciousness comes. Quindi prima ci sono i sankhara seguiti dal... Dependent on, it's dependent. Sì, quindi la coscienza dipende da questi condizionamenti, dipende da questi queste abitudini. In questa coscienza condizionata. Sì, always. Sì, la coscienza it's conditioned. È sempre condizionata. The consciousness is only what's on the mirror. Sì, it doesn't do anything. La coscienza è solo quello che c'è sullo specchio, non fa nulla. So it's conditioned by what's coming in. quindi è condizionata da ciò che entra. Abitudini. Habits, yeah. It's normally trans the reason he calls them, the reason he puts this part of our psychophysical organism separate is because this is created by will. The sankharas are created by will. Il motivo per cui li mette questo organismo psicofisico, lo mette come una categoria separata, è perché i sankhara sono creati dalla nostra volontà. Ah. So then you have the two things arising together, consciousness and the body and mind. E poi avete le due cose che sorgono contemporaneamente, il corpo e la mente, nama rupam. So we'll see this a bit more clearly as we go along. E questo lo vedremo un po' più chiaramente man mano che andiamo avanti. Then the body and mind are split into the six sense bases. E poi il corpo e la mente sono suddivisi nelle sei basi sensoriali. So there are only six types of consciousnesses in the Buddha's teaching. Quindi negli insegnamenti del Buddha ci sono solo sei tipi di coscienze. And they are determined by the sense base. E sono determinati dalle basi sensoriali. The world is, we are constantly creating the world dependent on information coming in, but what we do with it is completely created within this, what he called fathom length body. Quindi praticamente noi creiamo il mondo sulla base di tutto quello che entra attraverso gli stimoli sensoriali, però poi viene in qualche modo rielaborato all'interno di questo organismo psicofisico che lui chiama un corpo lungo, un'unità di misura orientale che non si può tradurre. Fathom is the... the sea length for the navy. È un'unità di misura usato in marina. Qualcuno se ne intende? Una lega, no? Cioè l'altezza di una persona, ecco, praticamente. Basta. Quindi come fosse un metro e 60, 70, eccetera. Però nei testi buddisti troverete questa cosa che in italiano so come tradurranno. Comunque il Buddha dice tutto il mondo viene creato all'interno di questo corpo che è alto così da un metro e mezzo a due metri, diciamo. Basta. So we have to understand that the world I'm living in is the one I am creating. Quindi dobbiamo capire che il mondo in cui stiamo vivendo è quello che noi stessi stiamo creando. And this, I cannot escape this bubble of consciousness. E io non posso scappare da questa bolla di coscienza. I can't get outside it, and I cannot experience the world as you experience it. Non posso uscirne fuori e non posso neanche avere esperienza del mondo così come ce l'hai tu. So it's like we are all little separate pods of experience. Pods. Pods. What is a pod? It's not important. No, pods. Yes, space like, pod. Like a pea. That's yeah, like a pea. Okay. Okay. Siamo tutti dei bacelli di esperienza. So, right. Then we have. Then he describes the moment of consciousness. That moment of consciousness. E poi continua con il descrivere il momento di coscienza. And this he calls, contact. Contact. So, at this point, there has to be an object, there has to be a sense base, and there has to be consciousness of it. E quindi, a questo punto, è necessario che ci sia un oggetto, che ci sia una base sensoriale, e che ci sia la coscienza di questo oggetto, cioè che ci sia il contatto. Now, when you observe pain in your knee, and you go into the pain, and all you can feel really is heat or pressure. Quindi quando avete un dolore al ginocchio, riuscite a entrare dentro il dolore o la sensazione, riuscite solo a sentire per esempio il calore o la pressione. This is the point of contact. Questo è il punto di contatto. The next moment is when we decide, or when we perceive rather, we perceive it as either being pleasant or unpleasant. E il momento successivo è quando noi lo percepiamo come piacevole o spiacevole. So we live in a dualistic world of it being either pleasant or unpleasant. Noi viviamo in un mondo dualistico dove le cose o sono piacevoli o spiacevoli. So this is Vedana. E qui siamo a Vedana, l'altra catena, l'altro collegamento condizionato. Il contatto condiziona Vedana. Bene. So, as soon as we experience something as pleasant or unpleasant, then we have this delusion arising from this, from these sankharas, these deluded mistakes. E quindi quando noi cominciamo a sperimentare un fenomeno come piacevole o spiacevole, ecco che nasce l'illusione, cioè nasce questo errore di fondo. So che we tanha. Want. No, sorry, I'm just since they're following. Yes. Yeah. So when it's something pleasant, we grasp it, we hold on to it, we want to develop it. Quando è qualcosa di piacevole, allora cerchiamo di afferrarlo, di trattenerlo, di svilupparlo. And of course, when it's unpleasant, we want to get rid of it or escape it. Ovviamente, quando è qualcosa di spiacevole, vogliamo sbarazzarcene o scappare. So, here you have this moment-to-moment arising of contact and feeling. Quindi qui abbiamo questo, questo momento di contatto tra feeling, la sensazione. Yeah. And underneath always in our psychology is this not knowing and these unwholesome habits. E sullo, al di sotto di tutto questo c'è questo non conoscere e queste abitudini. Yeah, unskillful. Unwholesome. Sì, e questo ovviamente è un atteggiamento non salutare. So, if you can imagine that in every moment of our lives, this is underneath it. Quindi immaginate che in ogni momento della nostra vita c'è questo flusso, diciamo, che sta sotto. And then, on our conscious level, every so often we find something which is pleasant, and from this the habit comes up to grasp it. E invece nella nostra esperienza cosciente ogni tanto sorge qualcosa che è piacevole e da sotto viene fuori questo nostro desiderio di afferrarlo, questa abitudine di afferrarla. And of course if it's unpleasant, to get rid of it. Oppure se è spiacevole è quello di sbarazzarsene. And every time it does that, the wheel turns back into the sankhara to create a stronger unwholesomeness. E ogni volta che questo meccanismo succede è come se ci fosse un giro della ruota e di nuovo sorgono questi sankhara però ancora più forti. And the delusion, they create a stronger habit. A stronger habit. E questi formano un'abitudine ancora più forte. The delusion is reinforced. E quindi viene rinforzata l'illusione. So that's why in our meditation we want to be clear about this reaction of wanting, not wanting. Ed è per questo che nella meditazione è necessario essere molto chiari rispetto a questa reazione del volere, non volere. Because if we're not, the next two points happen at an enormous speed. It's impossible to stop them. Perché se non ne siamo consapevoli, gli altri due punti della catena, gli altri due anelli, sono molto veloci ed è quasi impossibile coglierli. So the first one is the identity. I want, I don't want. Quello successivo, quindi, è l'identità. Io voglio, io non voglio. And then empowerment. E poi c'è il potenziamento. Potenziamento. And at that point we have created a karma. A quel punto abbiamo creato un karma. Yeah, karma in the technical language is an act. Perché karma nel linguaggio tecnico è un atto. fatto, un'azione. An action of the mind, an action of thinking or speaking or doing. Un'azione che viene dalla mente o dalla parola o dal fare. Mm. At this point, you see, that's when the energy comes down on that circle to the sankhara. Ed è a questo punto che l'energia come se scendesse al livello dei sankhara. Ah. So you see the circle, eh? Contact, experience, pleasant, unpleasant. Quindi vedete questo, tutta questa catena, no? C'è il contatto pleasant, con l'esperienza, poi c'è piacevole o spiacevole. Want. Voglio. I want. Io voglio. I get. Io prendo. Ah, and the habit gets worse. E poi l'abitudine diventa ancora peggiore. And the delusion which is beneath this habit is strengthened. E l'illusione che sta sotto questa abitudine si rinforza. Mm. So if the I came first, there would be no escape. Se venisse prima l'io, non ci sarebbe via di fuga. Ah. So normally in our language we would say I like, want, get ice cream. Yes, in Italian I have to change the verb a little bit. Quindi normalmente, sintatticamente, noi diremmo io amo, voglio, ottengo il gelato. Sì. So we think the I comes first. Quindi noi pensiamo che l'io venga prima. If the I came first, there couldn't be an escape because the delusion is set. Se fosse così, se l'io venisse prima, allora non potremmo scappare, non ci sarebbe via di salvezza, perché l'illusione sarebbe già, come dire, integrata nell'io. Sarebbe già stabilizzata. Like cement. Come se fosse cementificata, solidificata, diciamo. Sì. It's because the Buddha perceived that the I came late in the process that he could see the escape. È perché il Buddha ha intuito, ha percepito che all'interno di tutto questo processo l'io venisse dopo, che è riuscito a capire che c'era una via di fuga. So what happens is I scream, see, want, get, I, sorry. Ancora. Quindi, ancora, praticamente l'ordine l'ordine è diverso, eh? E comincia così. Così. Ice cream, che sarebbe il gelato. Sì. Like. Amo. Ice cream, want. Gelato, voglio. I want ice cream. Io voglio il gelato. I get ice cream. Io prendo il gelato. Ah, see? So it means that if my attention is with the wanting and I let that energy of wanting exhaust itself, I'm finding the escape out of suffering. Vuol dire che se la mia attenzione è sul volere e io aspetto che questa energia in cui metto nel volere si esaurisca, posso trovare una via di fuga. So this is the other side, you see. Allowing the desire to exhaust itself undermines the old habit. Quindi questa è l'altra faccia della medaglia. Quindi aspettando che il desiderio si esaurisca, facendo ciò io vado a intaccare, unwholesome habit. Tutte le abitudini sbagliate, non salutari. Vado a, come dire, a distruggerle, ecco. Exhaust. And this in turn undermines the delusion, the wrong understanding. E questo a sua volta distrugge l'illusione, cioè la comprensione errata. Ah, sì. So we have these three words for the point of doing something. Quindi abbiamo queste tre parole che esprimono questo momento in cui facciamo qualcosa. Cetana, Bhava and Kamma. Quindi Cetana, vabbè, l'ha detto lui, in Pali, Bhava e Kamma. Will, becoming, Sorry, let me do it the other way. Will, act and becoming. Quindi Cetana è l'intenzione o la volontà. La volontà. Bhava. Act, act. L'atto. Sì. And l'atto. Bhava becoming. E bhava è il divenire. Ah. So the Buddha says that the will is the same as the action. Quindi quello che dice il Buddha è che la forza di volontà è, cioè corrisponde all'azione, la stessa cosa dell'azione. Just in the same way that when you throw a stone, you can't separate the force from the stone. Allo stesso modo in cui lanciando un sasso non potete separare la forza dal sasso. Ah. And the becoming refers to the continuing of the belief in I. E questo divenire corrisponde a il credere in una continuità dell'io. Mm, sì. And then of course, once you begin the action, there's the process and the end of it. Allora uno poi dovrebbe iniziare un'azione, c'è il processo, poi c'è la fine dell'azione. So this is beginning, being born, growing, decaying and dying. E questa è l'ultima parte della catena, dove c'è il nascere, invecchiare, morire. So this is understanding dependence origination as something which happens at different moments during the day. Questo è appunto la catena dell'originazione interdipendente, intesa come qualcosa che accade in diversi momenti all'interno della giornata. It doesn't happen when you're asleep, for instance. Non succede, per esempio, quando state dormendo. No. And it doesn't happen when you're aware and you're seeing the desires coming up. E non succede quando siete consapevoli e vedete i desideri che sorgono. Ah, sì. So the other interpretation you will come across is of course three lives. C'è un'altra interpretazione del Paticca Sammupada che invece lo estende su nell'arco di tre vite. So from the past life you bring your delusion and your habits. Quindi dalla vostra vita passata portate le vostre delusion. Illusioni e le vostre cattive abitudini. Yeah. And they will find expression in your new life. E loro troveranno espressione nella vostra nuova vita. And then of course the process happens again. You're reborn and you die, you're reborn, die. E poi ovviamente il processo ricomincia, quindi morite, poi rinascete, morite. But I think it obviously makes more sense to us to see it as a something that is happening now. Però credo che abbia più senso per noi vederlo come un processo che ci succede adesso. Mm. So now to go back to the beginning of what we were saying. Allora, per tornare all'inizio di quello che stavamo dicendo. The Buddha talks about that consciousness which is without boundary. Allora il Buddha parla di questa coscienza che non ha limiti. And yet here we are with a consciousness which is bounded. Ed eccoci invece di fronte a una coscienza che ce li ha questi limiti, che è legata. So how do we come to have some idea of what Nibbana might be? E quindi come facciamo ad avere una certa idea di come potrebbe essere il Nibbana? So remember, as a baby, up until the age of 3, we push the outer world out from inside the mind to create this outer world. As a little child, we pushed this mass of information outward so we could create this other world outside. Quindi ricordatevi come cioè da bambini noi abbiamo spinto fuori tutta questa massa di informazioni che avevamo per creare il nostro mondo esterno. So in our meditation we are going through the next stage of pushing out as a world the inner world. E quindi nella nostra meditazione noi stiamo continuando questo processo e stiamo, come dire, tirando fuori, qualcuno ha detto proiettando forse, il nostro mondo interno. Ah, because when you discover the observation post within yourself, when you become the observer. Perché quando si scopre questa posizione di osservatore interno, quando sei l'osservatore, everything is an object. Tutto diventa un oggetto. So this means that you can't be that. E questo significa che tu non puoi essere quello. If you're looking at something, feeling something there, it can't be you here, the feeler. Se tu stai guardando una cosa là fuori, che sente una particolare cosa, non puoi essere tu. Non può essere colui o colei che sente. No. I was hoping people would nod vigorously. Io speravo che tutti faceste così con la testa, vigorosamente. So when if there's pain in the knee and I'm in this position of the observer, the pain is here, the observer's up here, no? Se c'è un dolore nel ginocchio e io sono nella posizione dell'osservatore, il dolore è lì e l'osservatore è qui. È un spazio, there's a space. C'è uno spazio. This space is telling me I can't be that. E questo spazio mi sta dicendo io non posso essere quello. Now, when I get to the position of the observer, I'm also aware of being the observer. Quando io mi trovo in questa posizione dell'osservatore, sono anche consapevole di essere nella posizione dell'osservatore. So I can't be that. E quindi non posso neanche essere quello. See? So if anything's an object, I can't be it. Se qualunque cosa è un oggetto, io non posso essere quell'oggetto. So there is something specific though about the observer. Però c'è qualcosa di specifico che riguarda l'osservatore. Or the feeler, or the one who knows. Oppure di colui che prova, colui che sente o colui che conosce. Because it's like this inner intuitive awareness is looking into a mirror. Perché è come se ci fosse questa intelligenza intuitiva che si sta, che sta guardando in uno specchio. The mind is mirroring back to this intuitive awareness its own presence. E la mente sta riflettendo a questa intelligenza intuitiva la sua presenza. La sua stessa presenza. Now, when you look into a mirror, you see your face. Quando vi guardate allo specchio, vedete il vostro viso. Now, how many of you have done the two mirror trick? Quanti di voi hanno fatto il giochino del doppio specchio? Nessuno. ecco. So, you look into the mirror, okay? And you have this mirror looking into the mirror, but you look at this mirror. Because when you look into a... No, I got confused. So you look into a mirror, see. And then you have another mirror on the side. Looking into the same mirror. Right, but you're looking... No, you're looking at this mirror. Allora, ci sono i due specchi, e quindi vi state specchiando in uno specchio più grande, immaginiamo. Però voi state guardando lo specchio più piccolo che riflette lo specchio più grande. Sì? Ci siamo? Anche grande, sì, no, ma così ci capiamo meglio. Now, lo tieni in mano. So when you look into a mirror, you're seeing your face the other way round. Quindi quando voi vi guardate nello specchio più piccolo, vedete. No. In the main mirror. In the main mirror, you're seeing your face the other way around. Ah, ok, sì. Ah, sì, perché vedete dall'altra parte. Ok, sì. Quindi quando guardate nello specchio grande, vedete il vostro viso, però dall'altro lato. Come? Riflesso. A rovescio. Sì, così, eh? So, when you look in this mirror, you see how people see you. Quindi quando guardate in quest'altro specchio, vedete come gli altri vi vedono. And it's always a shock. è sempre uno shock. You didn't think your nose was so big. No, perché non pensavate che il vostro naso fosse così grande. It's like when you first hear your voice being recorded. È un po' come quando sentite per la prima volta la registrazione della vostra voce. Or you see yourself in a video. O vi vedete in un video. So this observer is actually a mirror image. It's pointing in the right direction. Quindi questo osservatore è come se fosse uno specchio che punta nella giusta direzione. Mm. So one thing you can do when your meditation is very, very quiet, the body still, etc., etc., and the very strong sense of being the observer. E quindi quello che potete fare quando siete ben stabilizzati nella vostra meditazione, il corpo è fermo, siete calmi, e potete concentrarvi su questo osservatore. Quando vi sentite molto chiaramente essere l'osservatore, so put your attention on that feeling of being the observer. Mettete la vostra attenzione su questa sensazione di essere l'osservatore. And then when you finish that, ask yourself what was the knowing made of? Poi quando avete finito chiedetevi di cosa era fatto questo conoscere, cioè questa conoscenza di cosa era fatta? What was inside the knowing? Cosa c'era dentro il conoscere? And then we have some sort of idea of what the nirvanic consciousness is. E così avremo una certa idea di che cos'è la coscienza del Nirvana. And the last thing to say, I suppose, is that the Buddha says that this nibbanic consciousness is immortal. It doesn't. L'ultima cosa never da born, dire never dies. È che il Buddha dice che questa coscienza nibbanica è immortale perché non nasce e non muore. That's as far as he goes. He does not go any further than that. Lui arriva solo fin lì. Non va oltre. He doesn't talk about the relationship of his nibbana to our nibbana. Non parla della relazione tra il suo nibbana e il nostro nibbana. Nor does he infer that there must be some great consciousness of which we are part. E non inferisce, si dice? Non ne deduce il fatto che ci possa essere una coscienza allargata che comprenda come un dio tutti questi like a god. Nibbana individuali come se fosse un dio una coscienza universale diciamo because he won't go to what cannot be personally experienced perché lui non va oltre ciò che non possa essere sperimentato personalmente but there's as far as I know he does not deny the idea of a god or anything like that he only goes so far in his teachings, which is specifically concerned with bringing our suffering to an end. Però non è che lui neghi l'esistenza di questa possibilità, di una coscienza allargata o di un Dio, però non va oltre, cioè lui si ferma a questi insegnamenti che ci aiutino a superare la sofferenza con quello specifico obiettivo. And that's why if you go into different forms of Mahayana, you will also come across concepts of God and things like that. Ed è per questo che se esplorate altri approcci, soprattutto nella tradizione Mahayana, troverete che ci sono dei concetti di Dio e cose di questo genere. Yeah. So the other side of this is that such beliefs don't help to overcome suffering. L'altra cosa da dire a questo riguardo è che queste credenze non aiutano a superare la sofferenza. People complained to the Buddha that those people, some of the people he was teaching and who said he was their guru, were still going to the local shrines and offering gifts to the different gods. Alcuni ai tempi del Buddha si lamentavano del fatto che alcuni suoi discepoli, che si dichiaravano appunto suoi discepoli come se lui fosse il loro maestro e tutto quanto, continuavano comunque ad andare ai templi a offrire, a dare delle offerte alle divinità locali. He said, it doesn't matter, there's no harm. E allora lui rispose, ma non ha importanza, non c'è nulla di male in questo. Non c'è nulla di male. So he himself said that any form of religion which understood karma, which is of course good and evil and all that. No? E quindi lui disse che qualunque forma di religione, purché comprendesse questa legge del karma, cioè del ciò che è buono, ciò che è buono e ciò che non lo è, cioè good and evil, bene e il male, distinguere tra il bene e il male. There was a possibility of coming to the end of suffering. E quindi qualunque di queste strade poteva offrire la possibilità di giungere alla fine della sofferenza. I can only hope my words have not confused you. Posso solo sperare che le mie parole non vi abbiano confusi. By your clear understanding and devotion to the practice. Attraverso la vostra chiara comprensione, la vostra devozione alla pratica, you will achieve the end of suffering sooner rather than later. Raggiungerete la fine della sofferenza prima piuttosto che poi. Sadhu, sadhu, sadhu. Buono. When Ananda said to the Buddha, "This dependent origination, I've understood it now." Quando Ananda disse al Buddha, questa originazione è dipendente, adesso credo di averla capita. The Buddha said, "Oh no, Ananda." Il Buddha gli disse, "Oh no, Ananda." Can I ask a question? Yeah. Just to make you more confused. When you said the ice cream, like what I, the ice cream is contact. That's it. Like is Vedana. Vedana. Want is Tana. It's the desire. Huh? Yeah. Position. City. And I is Upadana, attachment. Ecco. Huh? Ecco. That is. That's so right. This is the point when Upadana comes. Is at the point is of the reason. That's it. Exactly that. At the point of Upadana, that's the suffering. That's when you suffer. At the point of want, is the suffering? No, no suffering. Is there suffering? No, because you in desire is no suffering. No, no. Lino, perché non lo dici tu in italiano? Così, no. Così sono sicuro. Per avere più chiaro questo aspetto del condizionamento, no? Allora ci sta il punto 6 e il contatto. Sì. Fasta. Passo. Contatto, che è il gelato. C'è il contatto con l'essenza. Il punto 7, il settimo anello della catena, è Vedana, le sensazioni, mi piace o non mi piace. No? Sì, sì. Like, mi piace. Il punto 8 della catena è Tana, la brama, il desiderio, lo sì. voglio. Sì. No? Sì. E sembra che Bhante Bodhidharma dice che ancora non è la sofferenza. Scusa, vera. Io tradurrei così infinito. Volere. Volere, sì. Volere. Perché ancora non c'è io. Non c'è ancora io. Volere. Volere. No. Bravo. Il punto 9 della catena, è lì che nasce il problema, the nine ring, è Upadana, che è l'attaccamento, ed è io. Quindi, gelato, piacere, volere, io. Io. E lì c'è la sofferenza. Ecco. Sì. How, because in your meditation, when you can see the desire, you're not suffering. Perché nella meditazione, quando riesci a vedere il desiderio, non stai ancora soffrendo. It's when you absorb into the feeling that the suffering begins. Quando diventi assorbito in questa sensazione, ecco. Che nasce la sofferenza. Sì, è così. So the point we have to practice is see the desire, contact, see the desire. And see the tendency to identify Upadana. I am that. You can. It's difficult to see that tendency because it's so quick. È molto difficile vedere questa tendenza a identificarsi perché è molto veloce. You wait till the energy of the desire disappears. Quindi bisogna aspettare che l'energia del desiderio si dissolva. Always. Sempre. Rimanendo sempre nella posizione dell'osservatore. Yeah. And then it doesn't come Upadana. Then no upadana. Now you've cut it. So now you're going back on the conditioning. Quindi a quel punto non c'è upadana, quindi è come se ci fosse stato un taglio nella catena e si è interrotto e si sta tornando indietro sul condizionamento, cioè ci si sta decondizionando. Sì, grazie. Allora, cammina.